Incontri di Gianfranco Fabi. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Con la voce di Bob Dylan, con questo classico The Time Are Changing, i tempi stanno cambiando, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giacomo Archi. Buonasera. Giacomo Archi, amministratore delegato di Henkel Italia, ha scelto questa canzone di Bob Dylan. Tra l'altro l'aveva scelta anche il governatore della Banca d'Italia per iniziare un suo intervento qualche mese fa, dicendogli i tempi stanno cambiando e forse non ce ne rendiamo abbastanza conto. Anche lei si rende conto che i tempi stanno cambiando e forse ce ne rendiamo poco conto di questo? Assolutamente sì, i tempi stanno cambiando, ma come vi diceva il mio vecchio capo, i manager ci sono perché devono cambiare. Se non ci fosse la necessità di cambiare, non dovrebbero pagare tutti questi soldi ai manager. Quindi per cambiare, per stare al passo con i tempi, probabilmente anche per anticipare certe cose, magari, come vedremo, come si può pensare di anticipare i tempi, un manager deve avere un po' di visione, guardare in avanti. Assolutamente sì, uno dei problemi più grossi è che quando le cose vanno bene in genere i manager tendono a sedersi, a rilassarsi. Il momento più stimolante è riuscire a prevedere il cambiamento prima che questo avvenga. Ecco, Henkel Italia, diamo una piccola carta d'identità della sua azienda. Ma l'azienda è nata a Düsseldorf alla fine dell'anno 1870. In Italia è presente dal 1930, quindi è tanti anni che siamo presenti qui in Italia, con una presenza all'inizio prevalentemente legata ai detersivi e poi piano a piano si è allargata ad altri settori, sia nel settore cosmetico che nel settore adesivi industriali. Ecco, forse Henkel come marchio è poco conosciuto, è più conosciuta come i marchi con cui si presenta al consumo. In 30 secondi le consento di fare pubblicità a questi marchi. Dixan, Vernel, Prit, Super Attack, Antica Arboristeria. Quindi ecco, marchi che sono nella logica appunto dei consumi, presenti nei negozi, nei grandi supermercati, nella grande distribuzione. Dove soprattutto? La grande distribuzione? Ma ovunque, sia perché abbiamo anche una linea di prodotti dedicati proprio al piccolo dettaglio, al bricolage, sia nella grande distribuzione, ma anche e soprattutto nella divisione industriale. Forniamo prodotti colle e trattamenti metallo per tutte le più grandi aziende italiane e internazionali. Quindi non solo nel dettaglio ma anche nel business to business. Esatto. E anche siete produttori, avete anche stabilimenti in Italia. Abbiamo 6 unità produttive, 2 della detergenza e 4 negli adesivi, quindi è una realtà importante. Quindi è una realtà anche industriale, anche produttiva, non si limita a importare cose a vendere ma esporta anche i propri prodotti. Assolutamente sì, qui in Italia ci sono 1200 dipendenti e in 6 unità produttive più la sede qui a Milano. Comunque è un'azienda tedesca, quindi comandano i tedeschi, possiamo dire così, semplificando e banalizzando le cose. Diciamo di sì, francamente rispetto a qualche anno fa, qualche decina d'anni fa, l'azienda è diventata molto più internazionale. La sede è rimasta a Düsseldorf, ma la lingua ufficiale è la lingua inglese, quindi le nazionalità dei manager veramente sono di tutto il mondo. Ecco, ma come viene vista da Düsseldorf la realtà italiana? Cioè è una realtà in cui si punta ancora, in cui si pensa che si possa non solo mantenere ma anche sviluppare le attività produttive? L'Italia è considerata, sì, sicuramente un grande mercato perché sono sempre 60 milioni di persone, però qualche problema ce l'ha, soprattutto rispetto alla Germania. Allora, devo dire che a una domanda simile che mi era stata posta qualche tempo fa, in realtà ho sorpreso molti dicendo che i tedeschi e in generale le aziende multinazionali giudicano l'Italia un posto eccezionale per capacità, per efficienza, per anche disponibilità a tovrare personale specializzato e qualificato. Quello che è veramente difficile è aprire delle nuove operation, cioè se esiste già una struttura, i nostri costi sono competitivi, le soluzioni che proponiamo sono veramente eccellenti e vengono adottate nel resto dei paesi in cui siamo presenti. Quando si tratta di aprire un nuovo stabilimento, di fare degli investimenti, allora ci si scontra con una burocrazia che è veramente asfissiante. Cioè, poi il problema è forse quello dell'innovazione. Un paese che mantiene bene le proprie cose, forse qualcosa dovrebbe mantenerle anche meglio, però non riesce a innovare. Un paese come l'Italia riesce a capire che i tempi stanno cambiando, come dicevamo all'inizio. Assolutamente sì. Diciamo che è fortemente limitata nella capacità creativa che hanno i nostri manager, i nostri imprenditori. Ecco, è una capacità creativa che gli italiani hanno, però forse vengono ostacolati dalla burocrazia, dalla logica, anche da un fisco un po' oppressivo, ormai è un ritornello lamentarsi del fisco italiano. Sì, anche se poi in realtà la gestione del fisco non è mai decisiva nella scelta dove produrre. È il fatto di avere un tessuto connettivo di aziende che possa veramente aiutare come linea di valore tutto il sistema produttivo. Ecco, una linea di valore, il problema del valore è certamente importante, l'azienda deve essere competitiva, deve cercare di essere sul mercato, di conquistare posizioni di mercato, ma deve cercare anche di avere una logica di sostenibilità, come si dice adesso. Rientra nella vostra strategia la sostenibilità? Assolutamente sì, è nel DNA della famiglia Henkel. Voglio ricordare che, pur essendo una multinazionale quotata in borsa, la proprietà è sotto controllo della famiglia Henkel e quindi questo è un fattore dove la volontà della famiglia si esprime, devo dire, in maniera assoluta. Per loro è assolutamente fondamentale che il loro buon nome venga e rimanga intatto e per questo, essendo l'azienda diciamo di matrice chimica, anche se molto orientata al largo consumo, tutte le ansie che può generare questa parola chimica sono assolutamente prese come riferimento e quindi si sono sempre adoperati per far sì che la nostra impronta ecologica sia la migliore possibile. Ecco, perché c'era un po' una contraddizione, almeno in passato, poi magari adesso mi smentirà, che i detersivi sono tra gli inquinanti più forti. In realtà non è così, c'è anche l'impressione che le aziende chimiche siano le più pericolose al mondo. In realtà, se andiamo a vedere i tassi di incidenti che accadono nel settore chimico, proprio forse per effetto di questa paura un po' generalizzata, in realtà sono i più bassi in assoluto rispetto a tutti i comparti produttivi. E i sistemi di salvaguardia sono veramente efficienti. Ecco, ma in questa prospettiva l'innovazione gioca un ruolo particolare. Chi ha una certa età pensa che dall'inizio abbia sentito parlare di un detersivo che lava sempre più bianco, ma c'è il più bianco del più bianco. In realtà non esiste vorrei adesso generare una disillusione tra i nostri ascoltatori, però il detersivo perfetto non esiste. Esiste un detersivo che è eccezionale su certi tipi di macchie, lo è molto meno su altre. E il problema è riuscire a trovare il giusto mix negli ingredienti per fornire il miglior risultato possibile in qualunque condizione di lavaggio. Comunque abbiamo fatto dei passi avanti negli ultimi decenni, diciamo, assolutamente. Su questo fronte. Cosa consiglierebbe alle massaie che ci stanno ascoltando sul fronte appunto dei detersivi? Ovviamente Dixan. No, non parlavo di dati, i 30 secondi erano già scaduti per fare pubblicità. Parliamo di metodi più che di prodotti. Ma io credo che in assoluto sia seguire molto attentamente le indicazioni di lavaggio. Molto spesso il consumatore tende ad eccedere nell'uso e questo non genera nessuno miglioramento a livello di performance, ma un significativo impatto ambientale, oltre che una spesa francamente inutile. Cioè, usare più detersivo di quanto necessario può essere controproducente. Assolutamente sì. Quindi su questa prospettiva attenzione anche alle istruzioni per l'uso, che ci sono, forse nessuno le legge quando compra un detersivo, ci sono le istruzioni per l'uso. Diciamo che le leggono, però poi se le dimenticano perché dicono voglio fare qualcosa di più per essere proprio tranquilla. Incontri. And mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are changing. I tempi stanno cambiando, ce lo ricorda Bob Dylan in questa sua famosissima canzone, ce l'ha ricordato Giacomo Archi, che ringraziamo di essere con noi questa sera, amministratore delegato di Henkel Italia, una carriera tutta in Henkel, mi sembra. Esatto, sono oltre 30 anni che lavoro in questa azienda. In realtà, pur mantenendo la stessa etichetta Henkel, ho cambiato tanti paesi, tante... Non è entrato come amministratore delegato, no? No, sfortunatamente no, ma ho cambiato tanti paesi, tanti lavori, e solo da 6 anni che sono amministratore delegato. E come è cambiata l'azienda in questi 30 anni, da quando lei l'ha conosciuta? Probabilmente ha risposto a l'hanno cercata dopo l'università. E com'è cambiata l'azienda in questi 30 anni? Ma io spesso con i miei vecchi colleghi, qualcuno ne è rimasto dal momento in cui sono entrato, ricordiamo i bei vecchi tempi nei quali per la prima volta arrivò in azienda il computer, era un Olivetti, e io fui uno dei primi ad averlo perché lavoravo alle ricerche di mercato, mi occupavo di statistica, e questo è stato l'inizio veramente della rivoluzione. E devo dire che a oggi forse sono diventato obsoleto rispetto alla digitalizzazione, però forse questo è stato il cambio più grande. Cioè il cambiamento proprio nel tipo di gestione dell'impresa, dell'azienda, ma questo ha reso forse anche un po' più tecnico il rapporto tra le persone, ha un po' disumanizzato l'impresa, oppure ci sono ancora dei momenti, dei luoghi in cui il rapporto umano resta fondamentale? Io sostengo che l'azienda in realtà è fatta dalle persone che ci lavorano, non è fatto dai marchi, dai brevetti, dai processi, è fatta soprattutto dalle persone che ci lavorano. E questo, devo dire francamente, negli ultimi tempi la velocità con la quale la digitalizzazione sta costringendo tutto il management a lavorare sempre più velocemente, tende un po' a disumanizzare i rapporti interni, però... Ecco, però bisogna difendere anche le caratteristiche dell'umanità. E come è cambiato il mercato, i consumi? Come sono cambiati in questi 30 anni? Indubbiamente c'è anche una certa crisi dei consumi in Italia per tante ragioni. Qual è il dato principale del mercato, di un mercato di beni di largo consumo come i vostri? Ma sicuramente il consumatore rispetto al passato è molto più attento. Come dicevo prima, guarda e legge più attentamente le etichette, le indicazioni, cerca di capire prima di scegliere un prodotto, e questo secondo me è un fattore assolutamente positivo. C'è anche una sicura operazione di razionalizzazione dei propri acquisti, quindi si scelgono marche in promozione, si scelgono prodotti. Cioè il prezzo è ancora un elemento importante, si sceglie molto perché un prodotto è un 2x3 magari e si riesce in qualche grande magazzino ad avere dei prezzi favorevoli, magari sotto costo almeno apparentemente. Diciamo che questo vale soprattutto per i prodotti esistenti sul mercato. L'innovazione no, l'innovazione riesce a superare tranquillamente le barriere di prezzo se il valore che si dà è un valore percepito. Ecco, questo è forse il fattore più importante. Ecco, ma le promozioni, diciamo, modificano anche le caratteristiche commerciali, le strategie commerciali di un'impresa, hanno influito in maniera notevole sulle vostre scelte, sulle vostre strategie? Assolutamente sì, ora in alcuni settori, soprattutto per il detersivi bucato, ma anche nell'ambito della pulizia del corpo, ci sono dei mercati che vengono praticamente promozionati costantemente. Le incidenze possono arrivare anche sopra il 60-70% del totale fatturato, e questo devasta il valore. Ma sono vere promozioni, dicendo la verità e guardandoci negli occhi, oppure sono promozioni, come molto spesso si dice, dei saldi? Uno aumenta il prezzo, poi fa lo sconto del 30%, il prezzo resta come prima. Di fatto, qual è la strategia commerciale? No, la realtà purtroppo è che il valore incide, il taglio di prezzo incide a volte anche oltre il 50%, e questo Da un lato fa piacere al consumatore, ma mette anche in dubbio la serietà di un prodotto, di una catena distributiva, perché com'è possibile avere a scaffale un prodotto che costa 10 e lo si trova tranquillamente a 5 o anche meno? E il sottocosto è veramente tale o è solo una promozione commerciale? No, è una promozione veramente forte e devo dire distruttiva. Personalmente non lo amo dalla parte molto di chi vende. Dalla parte di chi vende. Dalla parte di chi acquista invece può essere anche una cosa favorevole. Sì, anche se devo dire perde il riferimento del valore della marca. Quando si fanno dei tagli di prezzo così violenti, il consumatore si domanda, ma allora prima mi stavano prendendo in giro? E questo devo dire... Sì, la fiducia del consumatore è un elemento fondamentale, l'attaccamento. L'idea appunto che la marca sia una garanzia, questa è una cosa importante nell'ambito commerciale. Assolutamente sì. Ecco, su questo fronte abbiamo parlato di innovazione, voi avete stabilimenti produttivi, anche l'Italia ha stabilimenti produttivi in Italia, avete anche dei luoghi di innovazione, dei settori che si dedicano all'innovazione, è possibile innovazione in questi settori tradizionali come in fondo i vostri? Noi abbiamo due centri di competenza mondiale per quanto riguarda gli adesivi all'industria, e abbiamo anche nel largo consumo sviluppato progetti e prodotti che poi sono stati lanciati in tutto il mondo. Quindi dall'Italia? Dall'Italia. Cosa avete, se si possono rivelare dei segreti, qualche ipotesi di lavoro su nuovi prodotti, nuovi interventi, anche nuovi ambiti di presenza sui mercati? In questo momento ci stiamo focalizzando sul settore ammorbidenti e sono molto apprezzati perché consentono, al di là delle prestazioni di lavaggio fornite dal detersivo, di avere dei profumi sempre più gradevoli, sempre più persistenti, e questo è un po' avvolgere il consumatore con delle fragranze che sono veramente... Cioè puntate un po' sulla qualità della vita, anche sull'estetica, sul fatto del vivere bene in fondo. Ecco, com'è cambiata anche in questa prospettiva la promozione commerciale, i punti su cui insistete di più? Perché se in passato si insisteva di più sulla qualità del prodotto in quanto tale, adesso sugli effetti che può dare un certo prodotto sulla qualità della vita delle persone, è così? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto degli esperimenti, devo dire, di successo, proponendo al consumatore qualcosa di assolutamente diverso. Per esempio abbiamo offerto alle consumatrici la possibilità di avere pagate delle babysitter piuttosto che delle colf, abbiamo fornito dei servizi che fino ad oggi erano esclusiva pertinenza della scelta della consumatrice, e questo ha aiutato molto anche a far sentire l'azienda più vicina al consumatore. Quindi è un modo anche per promuovere la marca e quindi, come dicevamo prima, anche una marca che sia di affidabilità e di garanzia. In questo senso anche per voi vale la regola che un prodotto non è solo un prodotto, ma deve offrire anche un servizio al consumatore. Avete un telefono amico per una persona che ha una difficoltà o un problema sul fronte del consumo dei vostri prodotti? Uno dei criteri che ci siamo posti per eccellere nelle nostre performance è la velocità con la quale si risponde al nostro servizio consumatori. E devo dire che questo è un dato che fa registrare veramente dei consensi molto elevati. Quindi c'è un rapporto di fiducia anche al di là del semplice momento dell'acquisto. Ecco, guardando un po' in avanti, come vede le prospettive italiane? Come vede un'azienda multinazionale come la sua l'Italia? È un paese su cui continuare a puntare? Io devo dire che l'analisi che ci ha fornito anche Confindustria e Federchimica riguardo allo sviluppo futuro di questa crisi che ci sta colpendo da diversi anni si stanno sistematicamente realizzando. Dopo questo iniziale periodo nel quale il trend è negativo su tutti gli aspetti e le famiglie hanno veramente finanziato i propri giovani ragazzi, hanno abbassato in maniera significativa il proprio stock finanziario e adesso registrano la volontà di ricostituirlo prima di ripartire con i consumi. E questo naturalmente è un fatto assolutamente ovvio. Certo. Quello che ci aspettiamo è che quest'anno i consumi migliorino leggermente per poi avere un'accelerata, speriamo, finale a partire dal 2016. C'è una ripresa appunto della fiducia nel sistema economico, nel sistema paese, nel sistema europeo. In fondo voi siete un'azienda europea, un'Europa a cui dobbiamo essere legati, mi sembra, anche come prospettiva. È un'Europa che ci aiuta, che ci può aiutare. Assolutamente sì, devo dire il fatto di avere adesso delle prospettive legate alla quantitative easing, al prezzo del petrolio, ci mette sicuramente delle prospettive positive per quanto riguarda i costi. I costi e quindi anche la possibilità di crescere. In Italia c'è possibilità anche per i giovani di trovare. Uno dei grandi problemi italiani è quello della disoccupazione giovanile. Qualche giovane lo assumete ancora? Noi ne assumiamo, e non solo con dei contratti permanenti, e quando anche offriamo stage sono sempre retribuiti. E quando entra un giovane nella sua azienda cosa gli dice per la prima cosa? Che cosa vuoi diventare tra qui e 10 anni? E se dice amministratore delegato lo prendo, se no no. Beh, quindi 10 anni ancora di amministratore delegato e poi deve comunque garantirsi, guardare in avanti, garantire un futuro a un'azienda, e questo è un modo per essere legati all'azienda, mi sembra molto positivo. E cosa, un ultimo messaggio ai consumatori che vogliamo lasciare in questa serata? Di avere fiducia nelle aziende di marca. Sì, e guardare attentamente quello che uno sta acquistando, perché se lo studia attentamente può fare delle scelte di valore. Di valore, delle scelte di valore che proteggono appunto anche le proprie spese, che aiutano a vivere meglio. Grazie a Giacomo Archi di essere stato con noi questa sera, amministratore delegato di Henkel Italia. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.